Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, ben ritrovati a Salva Danaio. I tassi di interesse diminuiscono e con loro vanno i rendimenti di molti prodotti di investimento. Osservati speciali in questo momento sono i conti di deposito, conti bancari ad alto rendimento, anche se non tutti hanno la totale operatività del conto corrente, che hanno avuto un crescente successo negli ultimi mesi, anzi negli ultimi anni, sia per le elevate remunerazioni riconosciute, sia perché ritenuti, anche se non sempre a ragione, poi ne parleremo, un'alternativa di investimento rispetto ad altri prodotti da cui i risparmiatori stanno scappando date le incertezze in cui il mercato sta navigando da almeno 18 mesi. D'altronde, appunto, la borsa continua a perdere terreno, i rendimenti dei titoli di Stato sono ai minimi storici, gli altri prodotti non convincono i risparmiatori perché in questo momento c'è la generale sfiducia verso tutto ciò che attiene al mondo finanziario. E però anche per i conti di deposito il quadro sta cambiando: mantenere i tassi di rendimento fra il 4 e il 5%, e cioè oltre 2 punti percentuali almeno sopra quello che pagano ora BOT e CCT, sta diventando sempre più difficile. Allora, qual è lo scenario che ci si può presentare quest'anno, visto che comunque stanno reclutando molta clientela, come vi dicevo, in fuga da altri prodotti di risparmio? Oggi è il tema di cui parliamo con Cristian Miccoli, amministratore delegato di Chebanca, la banca retail del gruppo Mediobanca, qui a Milano con me. Benvenuto, ben ritrovato, anzi, perché non è la prima volta che viene a trovarci. In collegamento telefonico Giovanni Bossi, amministratore delegato di Banca IFIS. Invece, dottor Bossi, buongiorno e benvenuto anche lei a Salva Danaio. Grazie. E mi aiuterà invece a fare un po' sia, come dire, il grillo parlante, ma anche un po' il mio lavoro questa mattina, perché mi ha già detto sui prodotti di queste due banche. Sono molto curiosa. Francesca Tedeschi, Osservatorio Finanziato, ben ritrovata. Ciao Deborah, buongiorno a tutti. Naturalmente a noi piace molto vivacizzare sempre la nostra trasmissione grazie ai vostri contributi. All'800 24 00 24 è possibile prenotare i vostri interventi per dialogare con noi, ma ci potete anche scrivere al 349-238-6666. Allora, la fuga dei risparmiatori dai prodotti di investimento tradizionali verso i conti di deposito questa mattina trova l'ennesima ragione anche dal nuovo calo della borsa che riguarda tutta l'Europa, ripresa ieri sera tra l'altro a Wall Street. Come dicevamo prima, il mercato americano ieri ha vissuto una giornata molto negativa: Dow Jones meno 4%, Nasdaq meno 5,78%, Standard & Poor's meno 5,28%. Lo dicevamo prima, è stato il peggior Inauguration Day dal 1963, cioè dall'assassinio di John Kennedy, per gli indici americani. Quindi la borsa non ha salutato con grande calore il giuramento di Barack Obama, ma non è stata una giornata in cui gli indici finanziari hanno guardato al discorso del neo presidente. Forse in parte sì, quello a cui si guarda adesso è ancora una volta il quadro molto precario che riguarda i colossi internazionali del credito. Magari su questo chiederemo anche un commento ai nostri ospiti di questa mattina. Sotto i riflettori ieri è finito il colosso dei servizi finanziari americano State Street, che è crollato del 47% in borsa. Oggi in Europa sta toccando a Barclays nel Regno Unito, meno 37%. Già la borsa inglese in settimana è stata colpita dal crollo di Royal Bank of Scotland, quindi un nuovo caso pesantissimo per la City. Tra l'altro in Europa non tutti i titoli bancari stanno andando male, perché per esempio a Parigi Société Générale fa più 5,56%, il Crédit Agricole fa più 2%, e a Piazza Affari, che perde il 2% complessivamente, è ripresa una certa speculazione su alcuni titoli e su alcune banche di cui si immagina un futuro di imminente matrimonio. Banco Popolare più 4,62%, da tempo si parla di una possibile intesa con UbiBanca, i vertici smentiscono, lo vediamo adesso dalle agenzie, ma tanto basta far riaccendere i riflettori intorno ai titoli interessati. I titoli peggiori stamattina: Pirelli meno 4,58%, Intesa San Paolo meno 4,26%, l'Espresso meno 4,18%, Mediaset meno 4%, l'Ottomatica meno 3,91%, Fiat meno 3,62%, nonostante l'agenzia di rating Moody's ha detto il nostro rating appunto rimane invariato dopo l'intesa per l'acquisizione del 35% di Chrysler. E insomma, notizie buone che però al mercato a quanto pare non interessano affatto, visto che tra l'altro stamattina parliamo dei conti di deposito, delle remunerazioni che riconoscono alla luce dell'andamento dei tassi di interesse. Vi dico che sull'interbancario l'Euribor a tre mesi è sceso ulteriormente al 2,31%, è il livello più basso dal 9 novembre del CGIL 2005. Lasciamo la borsa, andiamo subito al tema di questa mattina, sentiamo un po' qual è la situazione dal punto di vista di questi prodotti che vengono particolarmente ricercati in questo momento da parte dei risparmiatori, i conti di deposito. Semplicità, costi minimi e rendimenti interessanti. È questa la ricetta dei conti di deposito, che in questo periodo di forte incertezza sui mercati finanziari hanno avuto una vera e propria primavera. Nati come semplici depositi di liquidità, si stanno trasformando in conti corrente a tutti gli effetti, grazie a un'operatività sempre maggiore. La loro caratteristica è di offrire interessi più elevati rispetto alla media di mercato e sono quindi uno strumento valido per veder fruttare i propri risparmi senza i rischi dei prodotti finanziari. La percentuale di rendimento in alcuni casi ha raggiunto anche il 5% lordo, rappresentando così un'appetitosa alternativa per i risparmiatori delusi da borsa e titoli di Stato. Ma anche se molto attraente, la remunerazione non è l'unica variabile da valutare nella scelta di un conto di deposito. Per giudicare la convenienza delle proposte, bisogna guardare al tasso di interesse applicato sia in fase promozionale sia in seguito. Molti, infatti, propongono elevati rendimenti solo per i primi mesi. Un'altra variabile riguarda la frequenza con cui vengono capitalizzati gli interessi, che può essere mensile, trimestrale, semestrale o anche annuale. Ci sono poi conti che garantiscono un rendimento maggiore, a condizione però che i risparmi restino vincolati per un determinato periodo di tempo. È bene ricordare, infine, che per quanto riguarda le garanzie, si va da conti protetti dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, fino a 103.000 euro, come i conti corrente tradizionali, a depositi più remunerativi, che però si basano su pronti controtermine. L'offerta è ampia, ma comunque si voglia procedere, è meglio decidere in fretta. Con il calo dei tassi, infatti, a cominciare da quelli della Banca Centrale Europea, che ha tagliato il costo del denaro al 2%, molte banche stanno già rivedendo i propri rendimenti al ribasso. 800 24 00 24 è il vostro numero verde per intervenire, per chiacchierare con noi. C'è già pronto Carlo da Vicenza, a cui chiedo però ancora qualche minuto di pazienza, perché vorrei fare un primo giro di domande ai nostri ospiti di questa mattina. Per le vostre domande invece con l'SMS, il numero è il 349 238 6666. Ne stanno già arrivando diversi e vedo che sono quasi tutte per il dottor Miccoli, almeno per il momento. Poi sentiamo se anche il Rendimax di Banca IFIS sarà gettonato alla stregua del conto appunto di Che Banca. Parto però con Francesca Tedeschi, perché le volevo chiedere un giudizio rispetto all'enorme crescita che questi, sia in termini di offerta, poi anche in termini di adesione da parte della clientela, che questi prodotti hanno registrato negli ultimi periodi. È giusto secondo te considerare questi prodotti come dei prodotti di investimento, come degli ombrelli sicuri per le finanze di chi scappa dalla borsa o dal titolo di Stato? Diciamo che ci sono due tipi di clienti per questi nuovi prodotti, che sono da un lato, come dicevi tu, chi scappa dalla borsa o parzialmente, cioè lascia alcune cose ma diciamo che si tiene un po' di liquidità, perché sta parlando di liquidità in questo caso, no? Invece che metterlo appunto sotto il materasso, si dice vabbè, diamo un po' di fiducia, fino a 50.000 mettiamo in questi. Ma ci sono anche i nuovi, i giovani per esempio, i giovani che cominciano a guadagnare. Tra l'altro sono un popolo molto attento e tra l'altro un popolo che nasce con internet, quindi non ha paura del conto online. I conti di deposito di cui stiamo parlando sono essenzialmente online. Cosa succede? Questi giovani cominciano a fare i conti in tasca e a vedere che qualche cosina, come dicono loro, si riesce anche a mettere da parte, quindi c'è il gusto del risparmio, anche se piccolo. Quindi questo sono due tipi di clienti, quindi, e questi clienti stanno crescendo. Diciamo che come osservatore finanziario credevamo crescessero di più nell'ultimo periodo del 2008. Noi abbiamo fatto questo rapporto a febbraio dell'anno scorso e a novembre erano cresciuti questo tipo di, diciamo, conti correnti con remunerazione o conti di deposito agganciato a conto corrente senza remunerazione, no? Diciamo con la quindi liquidità remunerata in questo caso erano cresciute del 10,1%, noi pensavamo 30%, ma ci stiamo rendendo conto che la maggioranza di clienti sta nuovi, si stanno diciamo lanciando in questo momento, in questi due mesi, probabilmente gennaio e febbraio, quindi probabilmente quando noi emetteremo il rapporto a fine febbraio qualcosa sarà cambiato. E infatti questa tra l'altro è proprio la circostanza che ci stava testimoniando a microfoni spenti il dottor Cristian Miccoli, amministratore delegato di Che Banca, che tra l'altro mi ammetteva anche molto candidato candidamente non so come interpretare questo segnale, mi diceva. Insomma, le file agli sportelli di Che Banca a Milano di molti, no? Clienti che vogliono aprire il vostro conto. D'altronde ci state dando sotto con la pubblicità, non si scherza da questo punto di vista. Insomma, questo lo si vede su tutti i giornali, su tutte le TV anche nazionali. Detto questo, adesso a parte, come dire, un po' l'aspetto folcloristico, dottor Miccoli, questa tendenza come la dobbiamo giudicare? È chiaro che voi avete una certa soddisfazione, però è anche un po' di paura che in qualche maniera forse va affrontata. Beh, ci sono due chiavi di lettura. Allora, la prima è questa. Allora, i conti di deposito sono stati una caratteristica dell'offerta delle banche online fino a poco tempo fa. La nostra vera sfida è quella di portare questo tipo di offerta, che è tipica delle banche online, anche su una banca moderna, quindi una banca che abbia un forte online ma che abbia anche una rete di sportelli, che è un po' la nostra caratteristica distintiva. E vedo che la cosa sta funzionando, perché di fatto abbiamo, come diceva lei, in effetti abbiamo veramente delle code agli sportelli di clienti nuovi che vogliono aprire il conto. E questo mi testimonia anche il fatto che le percentuali di sviluppo che ci si aspettava, il 30%, in realtà sono assolutamente realistiche. E ancora inespresse. Ancora inespresse, il collo di bottiglia vero è proprio l'offerta e i canali distributivi, perché io sono convinto che un cliente moderno voglia internet, ma voglia anche lo sportello. Cioè, i clienti vogliono tutte e due alla fin fine, anche perché è innegabile che se io poi devo prelevare 5.000 euro, la cosa mi viene molto più comoda se posso farlo al mio sportello, no? No, ma anche perché stavo considerando il fatto, se davvero il travaso è da, come dire, dai prodotti di risparmio puri, è chiaro che c'è bisogno anche di una consulenza, perché se il travaso comincia ad interessare somme rilevanti e non si può fare tutto solamente. No, ma c'è online, una cosa, Francesca. Ha ragione, ma c'è una, addirittura, tanto per completare il quadro, ci sono banche che sono state sempre banche, diciamo, da sportello, casse di risparmio, addirittura BCC, che hanno fatto conti di deposito con una versione online e con remunerazione, e stanno andando bene anche queste. Ecco. Sentiamo il dottor Giovanni Bossi, per la prima volta a Salvadanaio, amministratore delegato di Banca IFIS. Perché in quanto al conto Rendimax anche voi non è che scherzate, in quanto a pubblicità lo vediamo anche in questo caso su diversi giornali, magari specializzati, su diversi siti internet. Come stanno andando le vostre adesioni, dottor Bossi? Insomma, e soprattutto chi è, se è possibile fare un profilo del cliente che cerca il conto di deposito con una certa remunerazione in questo momento, scappa davvero dagli altri prodotti di investimento? Ma la sensazione che abbiamo è che sì, vi sia una certa, un allontanamento molto forte rispetto ad altri alternativi prodotti di liquidità e anche di investimento. E noi devo dire che dal punto di vista della promozione tradizionale, della pubblicità, ci siamo defilati moltissimo. Abbiamo preferito pensare di fare un prodotto molto basico, molto senza fronzoli, rapido, semplice, e puntare tutte le nostre carte sul rendimento elevato. No, forse allora io ho fatto caso un po' di più alla vostra pubblicità, forse per deformazione professionale. Abbiamo fatto qualcosa online, perché pensiamo che la poi. Infatti è lì che noi abbiamo una sensazione che il consumatore oggi sia molto più maturo di quanto non fosse un tempo, e che sappia scegliere, sappia la capacità di scegliere. Va online, sono molti giovani, ma non pensiamo solamente ai ventenni, pensiamo a persone che hanno la capacità di andare sulla rete e di scegliere in autonomia qual è il prodotto migliore. Quindi abbiamo preferito investire più che in promozione diretta pubblicitaria, investire in quello che pensiamo sia l'elemento centrale di questa. Ma certo, poi tra l'altro deposito, che è appunto il rendimento. Ogni azienda si misura con le proprie forze, con la propria strategia, si sceglie la politica commerciale appunto che fa meglio al caso proprio. In ogni caso, quello di Rendimax adesso è il 4,75%, il tasso più alto per la sua categoria in Italia, al netto di offerte promozionali, quindi Mediobanca al 4,70, siamo un po' sotto. Sì, poi Miccoli la faccio rispondere. Bossi? Sì, che viene addirittura al 4,84 effettivo anno, perché appunto la capitalizzazione è trimestrale in questo momento. Li modificherete questi livelli di remunerazione? Non possiamo combattere contro la forza di gravità, che si sta scendendo. Oggi siamo due punti abbondanti sopra, come ricordava lei, l'Euribor a tre mesi, che è un po' il parametro di riferimento che tutti ci prendiamo in considerazione. Abbiamo intenzione nel corso del mese di marzo di ritoccare al ribasso il nostro tasso sul deposito libero. Ci stiamo impegnando per offrire ai clienti che saranno clienti alla data del calo, che sarà in marzo, riteniamo, un deposito vincolato mantenendo il 4,75 almeno per un certo periodo con questi clienti, ma soprattutto ci impegniamo a dare ai clienti attuali e a quelli futuri il miglior rendimento del mercato su deposito libero, senza vincoli, al netto di quelle offerte promozionali di cui la scheda poi è stato riferimento. Specifichiamo anche la natura del deposito libero e delle altre offerte che avete in casa. Cristian Micoli, invece voi come avete intenzione di aggredire la forza di gravità dei tassi di interesse che comunque scendono, continueranno a scendere quest'anno, però ecco, la vostra è un'offerta anche abbastanza particolare perché voi riconoscete la vostra remunerazione in anticipo alla clientela. Sì, sì, abbiamo studiato l'offerta proprio per renderla più trasparente e immediata possibile e quindi siamo il primo e penso l'unico conto in cui o strumento di investimento in cui il rendimento viene accreditato immediatamente quando si fa l'operazione. Quindi quando il nostro cliente vincola i propri risparmi ottiene immediatamente l'interesse netto che riguarda evidentemente tutto l'anno. Dopodiché cosa può fare? Lo può reinvestire, lo può utilizzare, lo può spendere, diciamo, secondo di quello che preferisce. C'è un aspetto tra l'altro che vorrei toccare adesso andando avanti nella nostra conversazione, però prima sento gli ascoltatori, è che un po' la contestazione che questi prodotti che stanno sorgendo sul mercato, che sono arrivati anche lo scorso anno, è che in genere appunto i rendimenti più attraenti sono limitati nel tempo e sono al centro ovviamente di promozione per attirare i clienti e poi però si ritorna in ranghi più ragionevoli per quello che riguarda le remunerazioni, più in linea con il mercato. Magari su questo ci arriviamo nella seconda parte di Salvadanaio, sentiamo un paio di domande, le mettiamo in cantiere a cui rispondere. Poi Carlo da Vicenza, benvenuto. Buongiorno a tutti. Io volevo capire se il conto deposito, che banca, oppure conto arancio e altri, se vanno in default perdo tutto, oppure sono garantiti da loro fino a 103.000 euro. Tra l'altro Carlo, sì, guardi, no, io mi metto sopra la sua considerazione perché praticamente l'ultima volta che abbiamo invitato il dottor Miccoli era stato un invito proprio per affrontare questo argomento. Era stato il momento in cui sembrava che tutte le banche dovessero fallire da un giorno all'altro e che tutti i nostri depositi dovessero sfumare da un momento all'altro. Però chi mi vuole aiutare? Magari Francesca, mi puoi aiutare tu, se puoi anche il dottor Miccoli, ognuno per la propria banca. Sì, sono garantiti, quindi diciamo che questo pericolo non c'è. Sicuramente questo è un problema soprattutto d'immagine, questo lo dico anche al dottor Miccoli, ma lo sa meglio di me, perché ai tempi in cui stava appunto in Daret, quando si andava poi a una banca tradizionale dice una figurati se conto arancio e adesso noi abbiamo fatto delle prove in filiale, in certe filiali ti dicono ma queste cose, cioè le banche tradizionali che invece non hanno ancora fatto questa scelta fanno un po' di terrorismo da questo punto di vista, quindi è bene invece chiarire che c'è trasparenza e tranquillità. Sì, tra l'altro, allora, in generale su questi argomenti bisogna dire per il cliente la prima cosa da valutare è la solidità del gruppo della banca a cui sta affidando i propri risparmi, perché questo è il punto fondamentale. Dopodiché ci sono vari tipi di tutele, no? Nel momento che io sbaglio la banca a cui affidare il denaro e questa banca è in realtà una banca rischiosa che fallisce. Solo che adesso è un po' difficile intercettare la banca che ci possa dare, come dire, parametri di solidità in assoluto. Comunque qualche... Ma nel momento in cui il mercato non fa distinzione di niente. È vero, però fino a un certo punto, nel senso, beh, esempio, se lei parla ad esempio del gruppo Mediobanca non è stata coinvolta nelle obbligazioni Lehman, non ha prodotti strutturati particolari in bilancio e così via, diciamo. Non in tutti gli ultimi 2-3 anni non è mai stata al centro della cronaca finanziaria proprio perché è gestita con criteri prudenziali estremi che le consentono, diciamo, di evitare questo tipo di burrasche. Quindi in realtà si può valutare la solidità. È una grande banca, no? D'affari, effettivamente, insomma, comunque ha avuto nella storia una mission molto diversa dalle banche retail, dalle banche tradizionali. Non ha mai avuto default significativi sui prestiti che ha fatto e così via, quindi da quel punto di vista è una garanzia di sicurezza e solidità. Detto questo, però, anche se voi lo vorreste, non possono tutti i clienti venire da voi, perché comunque si guarda intorno e ci sono anche le garanzie dello Stato. Infatti, volevo dire, la cosa importante, secondo me, da sapere sul deposito è che il deposito, al di là della garanzia statale, al di là del fondo di tutela, che comunque appunto esistono e quindi sono delle buone garanzie, ha questa caratteristica che nel momento in cui la banca dovesse andare male e dovesse fallire e va in mano a un curatore fallimentare, Questo curatore fallimentare cosa fa? Comincia a vendere gli asset, portare a liquidazione gli impieghi e la prima cosa che fa con quello che ricava è rimborsa i depositi. Mm-hmm. Quindi i depositanti prendono sempre tutto. Tutto quanto. Benissimo, grazie per questa incisiva rassicurazione sulla quale poi magari se avrete bisogno ritorneremo. A Salvadanaio questa mattina siamo tornati su un tema che abbiamo più volte affrontato, però il quadro sta un pochino cambiando, per cui abbiamo ritenuto opportuno ritornarci. Come funzionano i conti di deposito? Cioè quei conti non sono sempre anche dei conti che hanno un'operatività di un conto corrente, sono conti dove possiamo accantonare il nostro risparmio, ci offrono una remunerazione che negli ultimi periodi è stata anche piuttosto interessante, siamo arrivati a punte del 4-5%, tassi lordi naturalmente, e però insomma hanno battuto in termini di rendimento molti altri prodotti di risparmio e di investimento, sono stati scelti anche da molti risparmiatori in fuga da BOT, CCT e dalla borsa, e però adesso qualcosa potrebbe cambiare perché, come dicevamo, i tassi di interesse vanno scendendo, per cui anche queste remunerazioni probabilmente nel tempo non potranno essere mantenute. Però ci sono molte domande da parte di molti ascoltatori sull'operatività di questi conti di deposito. Noi stiamo rispondendo questa mattina con Francesca Tedeschi di Osservatorio Finanziario, ma anche con Cristian Miccoli, amministratore delegato di Chebanca, e Giovanni Bossi, amministratore delegato di Banca IFIS. Tra l'altro, sulle ultime considerazioni che ci hanno portato a fare alcuni nostri ascoltatori, volevo chiedere anche dei commenti a Bossi in questo clima generale in cui si ha ancora la percezione, la sensazione che le banche potrebbero continuare a fallire. Dottor Bossi, lei cosa pensa insomma di questa percezione che è maturata anche dalle telefonate che abbiamo ascoltato? Io condivido completamente quanto ha detto il dottor Miccoli pochi minuti fa. Questo rischio di fallimento, soprattutto legato alle banche che fanno conti di deposito, puzza di terrorismo molto da lontano. Cioè, non è un ragionamento assolutamente irrealistico. Non ci sono banche che falliscono in questo paese, non falliranno, non ci saranno nel breve termine, fondamentalmente neanche nel medio, per quanto possiamo vedere oggi. Posso dire che, condividendo il tema del dottor Miccoli, che in effetti tutto il sistema bancario italiano in realtà è stato abbastanza lontano, ma in particolare per quanto mi riguarda parlo di Banca IFIS, così come anche così, ma non solo noi, siamo tutti lontani da qualsiasi tipo di asset, di quei famosi asset tossici che fanno tanta paura alle banche europee, soprattutto alle banche statunitensi. Noi non abbiamo addirittura per niente un portafoglio titoli. Banca IFIS è una banca specializzata sul finanziamento, sul supporto alle imprese, alle piccole e medie imprese, con la manna di questo periodo, peraltro un contenimento di rischio molto elevato dato il mestiere che facciamo, ci lavoriamo sul brevissimo termine. Ecco, tutto questo allora, guardi, le introduco subito la seconda domanda, che peraltro le vogliono fare anche alcuni ascoltatori. Io gliela faccio fare da Massimo D'Ancona, mi risponde per primo lei, poi sentiamo anche Miccoli, perché il tema è questo: data la vostra mission che vi ha messo anche al riparo da tutti i rischi in cui il mercato è caduto in questi ultimi periodi, allora come si fa a riconoscere delle remunerazioni così interessanti? Massimo da Roma. Sì, buongiorno. Io volevo fare una precisazione, premesso che il terrorismo è sbagliato e che nessuna banca in Italia fallirà naturalmente, però intanto il Fondo Interbancario di Tutela Depositi e Prestiti rimborsa il 20% entro 6 mesi, poi si vedrà. No? Per cui io ho 100.000 euro, li metto, poi non è che giorno dopo ci fallisce la banca, li riprendo. Ma al di là di questo, poiché un governativo, c'è cioè un risk free così chiamato, rende l'1-1,5% in giro per il mondo, e poiché un corporate, cioè un'obbligazione societaria, rende un 6%, se una banca deve riconoscere un 4,5 più il costo del dipendente, del francobollo, della contabile, degli apparati informatici, ma cosa ci fanno con questo denaro le banche? Perché allora lo prestano agli imprenditori, ma il tasso è al 2%, per cui mettendogli uno spread del 3 va al 5. Allora cosa ci fanno con questo denaro? Perché il problema in America nacque perché cosa ci faceva Lehman con i soldi dei clienti? Prestava 35 volte quello che aveva lei. Allora, il problema di fondo è: ma cosa ci fanno? Guardi, ce lo facciamo risolvere subito questo dubbio. Giovanni Bossi, Banca IFIS, cosa ci fate? Ma guardi, intanto vi dico una cosa. Le 35 volte di Lehman sono le 35 volte tanto di cui si parlava per Lehman Brothers. Ecco, posso dirle che Banca IFIS ha quello che si chiama il Tier 1, cioè il requisito della patrimonializzazione. Il 12-2008 esattamente ancora disponibile, non posso comunicarlo, ma siamo in doppia cifra, cioè ben oltre il 10%. Quindi 10 volte e non 35 per quanto ci riguarda. Le devo dire una cosa, la nostra scelta di stare così alti con il tasso è una scelta che parte da una considerazione. Noi siamo una banca che finanzia l'impresa, piccola e media impresa. Piccola e media impresa che, devo ammettere, paga il denaro oggi in maniera abbastanza cara, perché fa fatica a trovarne, come tutti gli ascoltatori sanno, questo momento di qualche difficoltà dal punto di vista delle imprese a trovare... Di grandi difficoltà, di grande difficoltà per le imprese a trovare risorse sul mercato. Noi continuiamo a supportare le imprese, in questo senso abbiamo dei margini di una qualche significatività. Ciò detto, la cosa importante però è che il mercato interbancario, al di là del tasso interbancario, che è quello che lei ha citato... In apertura, ma sì, noi lo diciamo tutti i giorni perché il tema del mutuo è il nostro grande cavallo di battaglia, dottor Bossi, quindi ci interessa quello. Sì. Quindi va bene, il concetto qual è? È che poi sul mercato interbancario le banche non si scambiano effettivamente soldi solo a quelle cifre. Una banca che voglia fare della raccolta, come è noto, va a pagare oggi, se fa raccolta retail, anche conforme tipo obbligazioni a 2, 1 anno, 3 anni, va a pagare degli importi ben più elevati. Lo vediamo da banche italiane, importanti banche italiane, che hanno pagato su raccolta 2-3 anni, hanno pagato 200 basis point sopra il swap, che è paragonabile all'Euribor a 3 mesi, sotto certi punti di vista, era affrontabile, swappabile. Quindi per rastrellare, sì. Quindi noi cosa facciamo? Noi, se abbiamo scelto di avere un prodotto semplice, senza fronzoli, con costi di gestione del prodotto bassissimi, niente, quasi nulla pubblicità, pochissimo costo di pubblicità, e di ridare al cliente quello che avremmo pagato, il costo marginale che avremmo pagato su linee marginali che prendiamo sul sistema bancario. Quindi per noi l'operazione retail di Rendimax non vuole essere un business a sé stante, vuole essere una diversificazione delle fonti di raccolta nella quale riconosciamo ai clienti il massimo rendimento compatibile con le condizioni del mercato interbancario. Cristian Miccoli, amministratore delegato di Luce Banca. La filosofia è la stessa per quello che riguarda la remunerazione invece che riconosce il vostro conto di deposito? È sicuramente abbastanza simile. Direi che l'ascoltatore ha ragione, nel senso che questi tassi sono effettivamente alti e in effetti confermo che noi li abbasseremo. Anche se evidentemente un cliente che apre oggi si garantisce il rendimento del 4,7% per tutti i prossimi 12 mesi, no? Quindi chi apre oggi è tranquillo, l'operazione fa a condizioni chiare. No? E quindi dicevo, indubbiamente noi scenderemo, il ragionamento comunque di base è, in ogni caso, questi rendimenti non sono per niente distanti al costo del finanziamento che hanno le banche sul mercato obbligazionario, no? Era lo stesso ragionamento che si faceva prima. E io concordo su questo aspetto, quindi i tassi vanno letti in maniera diversa. È chiaro, normalmente è difficilmente accessibile questo tipo di tasso al piccolo cliente retail. Qui quello che stiamo facendo noi è diamo la possibilità al piccolo cliente retail di avere i tassi che normalmente si praticano per gli istituzionali sostanzialmente, no? Quindi trasferiamo un beneficio tipicamente riservato ad alcuni operatori di grosse dimensioni anche al piccolo cliente. Francesca, aiutami tu, tra l'altro adesso a parte i conti di deposito, poi in casa Mediobanca ci sono anche il conto corrente, c'è la possibilità di attivare il mutuo eccetera, Rendimax invece è il conto di deposito di Banca Ifis, che è il prodotto più simile al conto arancio, il conto deposito nudo e crudo. Ci sono altri conti di deposito che riconoscono delle modalità di riconoscimento della remunerazione anche in questo caso in maniera vincolata, perché hanno un sottostante, comunque un investimento in pronto controtermine, come per esempio i V-Bank, se non ricordo male. Sì, ci sono sicuramente numerose altre offerte. Ricordi, i V-Bank sicuramente ha due possibilità, c'è il conto corrente, c'è liquidità sul conto corrente, più ha la possibilità di investimento su V-Power e quindi con una formula diciamo più o meno come quella di pronti conto termine, sempre a periodi, quindi a termine, 2 mesi, 3 mesi, 6 mesi, con maggiore remunerazione. Dicevo, poi ce ne sono altri ancora, sempre delle banche diciamo multicanale o che derivano dall'online come WeBank, che adesso offre il 5 ai nuovi però clienti, la stessa cosa Web Sella del gruppo Sella. Ci sono queste novità dalle banche più diciamo tradizionali, come Cassa di Risparmio di Asti, che ha un nuovo conto con deposito con remunerazione che si chiama Nuova Raccolta e via discorrendo. Mm-hmm. Indirect è un caso particolare perché ha fatto il contrario di quello che di solito avviene, cioè c'è il conto corrente e poi c'è il conto di deposito. Invece loro avevano il conto di deposito storico e che continua a remunerare in questo momento il 4,25, però hanno aperto il conto corrente online da fine anno e quindi sono, diciamo, hanno un'offerta completa in questo momento. E quindi sia di conto, diciamo, di pagamento che qui c'è un po' un discorso di mentalità, cioè mentre lo affrontiamo dopo i suggerimenti, sì, nell'Europa, viaggio, tra sì. conto di deposito e conto corrente, ecco, parliamone magari, perché nel resto dell'Europa è ben chiara la differenza, quindi qua Italia ancora no. Allora, stavamo affrontando la questione della differenza di mentalità tra il cliente bancario italiano, ne abbiamo parlato tantissimo, non riguarda solamente l'utilizzo del conto di deposito piuttosto del conto corrente, comunque tra la mentalità del cliente italiano e quello europeo non si capisce ancora, mi stavi dicendo Francesca, in Italia bene la differenza fra il conto di deposito e il conto di corrente tradizionale, sì, di pagamento. O il conto online magari. Ecco, no? Nel caso proprio di Che Banca, che ha rivoluzionato un po' il discorso, cioè Che Banca ha detto c'è il conto di deposito che è remunerato, il conto corrente non è remunerato e ha un costo minimo, ma comunque, quindi se una, e questo diciamo che è la grande novità. Poi c'è la possibilità, per esempio, per i pagamenti, se uno non deve per esempio pagare, non so, ricorrente il mutuo eccetera, ci sono delle novità anche per il pagamento, come in questo caso la carta prepagata, mm-hmm. no, che è stato chiamato conto tascato. Ecco, ci sono possibilità per pagare meno. Il tuo amico che sta cosa. Dicendo tutto Francesca Tedeschi stamattina, l'ho invitata perfetto, così perfetto. È dipinto qui accanto a me. È una novità importante perché purtroppo in Italia il problema è che ci sono le tassazioni piuttosto pesanti poi sulle remunerazioni della liquidità, che sono più le tasse. E quindi diciamo che questo è diciamo un problema importante che va affrontato a livello legislativo, ma ancora di più è mia mentalità, cioè se una persona ad esempio ha anche il suo conto tradizionale con cui fa i pagamenti eccetera, ma vuole avere remunerazione, nulla toglie che abbia un conto in più. Certo. Quindi questa possibilità di avere un conto corrente in più che costa zero in questo caso, non conto corrente, un conto di deposito in più, scusate, che costa zero, che va gestito online ad esempio, quindi con molta facilità, quindi molta trasparenza, magari con gli SMS che avvisano quanto hai tutti i giorni, ecco, tanto per stare tranquilli che non sia sfuggito tutto. Esatto. E magari rispondiamo anche a chi teme la frode informatica. È una novità tecnologica e di prodotto molto interessante che dovrebbero, come dire, provare un po' tutti, anche quelli che hanno i conti tradizionali. Eh sì, Francesco è una grande sponsor, insomma, di tutto ciò che riguarda l'ambito online, l'internet banking, insomma. Tra l'altro con l'Osservatorio Finanziario eseguono degli studi anche molto interessanti periodicamente. Sentiamo Vincenzo da Napoli, se no dirà che l'ho chiamato per scherzo. Vincenzo, benvenuto. Buongiorno, sì, grazie. Allora, volevo dire questo, ho 70 anni e dagli oltre 50 anni ho un conto corrente presso un istituto importante. Sì. E ho trasferito anche i conti delle mie figlie. Fino a poco tempo fa, vale a dire fino a un anno fa, avevo l'1,60 con delle agevolazioni sui costi di gestione. Oggi, cioè il mese scorso, ho ricevuto una lettera nella quale mi si diceva che dall'1,60% sarei passato allo 0,60%. Mm. Oggi invece ho ricevuto ancora un'altra lettera che da 1 febbraio il tasso di interesse attivo è dello 0,10%. Sì, Vincenzo, io non vorrei essere maleducata con lei. In realtà noi questa mattina stiamo parlando di un altro argomento, adesso non riusciamo anche ad affrontare come dire la modifica delle condizioni. Poi qui c'è il tema anche della modifica delle condizioni unilaterali da parte della banca, dei tassi praticati e quant'altro. Magari però se vuole posso far fare un commento ai nostri ospiti, Francesca. La banca gli ha comunicato, insomma, che le condizioni sono diverse. E questo è una realtà, cioè la banca può comunicare il cambiamento unilaterale, quindi questo sicuramente. C'è la grande, come dicevo prima, possibilità oggi con zero spese di cambiare banca, quindi se non è d'accordo, esatto, va la banca e dice chiudo conto, anni, ne apro, può il anche, conto è può chiuso, anche a zero, anche se non è ancora proprio così purtroppo, infatti. Ma quindi c'è la possibilità, c'è la concorrenza, ecco, questo vorrei dire. Allora, ritorniamo invece sul tema che avevo lanciato, magari se vi interessa poi naturalmente dottor Micoli può intervenire anche su questo punto, però il tema che abbiamo lanciato prima, cioè che molto spesso in molti si lamentano sul fatto che ovviamente attratti e dalla pubblicità che si fa e dalle enormi campagne promozionali, dai rendimenti allettanti appunto promessi, ovviamente si coglie questa occasione e si scopre dopo un po' che magari poi le offerte possono essere modificate. Adesso noi lo stiamo annunciando perché evidentemente i tassi diminuiranno nel corso di quest'anno, quindi è chiaro che la vostra politica si adeguerà, però voi dice ma insomma perché queste... Bisogna distinguere tra cos'è una promozione e cos'è una normale politica dei tassi, no? Allora, noi non facciamo promozioni, nel senso che il tasso che offriamo è disponibile oggi a tutti i clienti, che siano vecchi clienti, nuovi clienti, così via, no? Quindi non diciamo, caro cliente, se vieni, sei un nuovo cliente o ci porti nuovi soldi, ti diamo un tasso, altrimenti te ne diamo uno più basso. Noi diciamo, no, abbiamo un tasso unico che non è una promozione e vale per tutti. E poi è evidente che i tassi purtroppo non possono rimanere fermi, no? Perché le condizioni di mercato cambiano e quindi noi come siamo nel mercato come tutti e quindi siamo costretti, diciamo, ad alzarla o ad abbassarla a seconda della situazione, no? Quindi in questa situazione specifica di mercato li abbasseremo, in altre situazioni li rialzeremo, anzi più possiamo alzarli più siamo contenti evidentemente, no? Per cui ci auguriamo che il ciclo cambi al più presto possibile. No, quello che volevo anche dire, l'importante è che si sappia con grande chiarezza sin dall'inizio che si tratta di una promozione che può essere limitata nel tempo e quindi magari qua l'invito anche ai soggetti finanziari a fare una pubblicità che sia trasparente. Francesca, non lo so, adesso può sembrare una banalità. Sì, l'online è più trasparente delle altre possibilità, ma la cosa che vorrei dire a chiunque ci ascolti è che il denaro va gestito e non va tenuto in banca come si tiene sotto il materasso, cioè va comunque gestito, le possibilità sono diverse. Questo dell'online a zero spese, tra l'altro, dà veramente la possibilità di provare e di utilizzare il denaro, di verificare, quindi anche di far crescere il mercato in maniera positiva. Cioè noi vorremmo chiedere a tutti di provare, utilizzare e farci poi sapere anche a questa trasmissione come va, perché in effetti si migliora il mercato. C'è bisogno della concorrenza, ma c'è bisogno dei clienti. No, vi leggo intanto tra l'altro qualche messaggio anche interessante di clientela bancaria molto attiva. C'è l'ultimo messaggio che ci è arrivato di Marco da Treviglio che ci dice: io sono cliente di Conto Arancio dal 2002, ma per sfruttare al massimo le possibilità di rendimento del mercato ho diversi conti online, sposto i miei soldi dove c'è la maggiore convenienza del momento, offerte comprese come al supermercato, non ho più conti correnti di tipo convenzionale. Adesso non è che dobbiamo diventare necessariamente tutti così estremamente mobili come Marco, stiamo attenti anche a giocare col conto corrente, però magari lui ha tempo per farlo, magari non investe in borsa su prodotti di risparmio, sceglie questo veicolo per far fruttare il proprio denaro. Volevo invece leggere anche questo messaggio di Carlo da Perugia, perché mi sentirei di rassicurarlo, visto che abbiamo dato la notizia del crollo a Londra dei titoli Barclays. Ho investito proprio ieri quasi tutta la mia liquidità sul conto 5% netto di Barclays. Secondo voi cosa e quanto sto rischiando? Beh, per quello che riguarda l'operatività in Italia io non credo nulla. Qualora succedesse qualcosa a Londra, il governo sta nazionalizzando tutto quello che può, quindi anche a Barclays immaginiamo che non succederà niente. Carlo, io credo che di poterla rassicurare nella maniera insomma più ampia possibile. Mi volete aiutare? Non so. Dottor Bossi, adesso non lo voglio chiedere ovviamente di Barclays, però vorremmo un po' ribadire anche quello che dicevamo con lei prima. Io credo che in una fase come questa nessuna banca verrà più lasciata fallire, poi chiaramente si ripercuoterà tutto l'effetto del disastro economico intorno sui titoli in borsa, per il resto i governi sono sempre pronti ad intervenire. Mi pare proprio di sì, direi che non vi sono, io insisto, non vedo lo spazio per fallimenti di alcun tipo di banca oggi in questo momento in Italia, in Europa, non vedo, mancano i presupposti perché questo accada. I governi hanno dichiarato fortissimamente intenzione di intervenire, qualora ci siano difficoltà lo hanno già fatto, continueranno a farlo perché sarebbe assolutamente sciocco non farlo dopo aver fatto quello che è stato fatto finora. Le banche sono, al di là dell'essere soggetti imprenditori, esercitano una funzione pubblica di supporto a tutta l'apparato produttivo di ogni paese e sotto questo punto di vista i governi hanno dichiarato con grande precisione che non ci saranno spazi di rischio. Un'ultima cosa sul vostro conto di deposito, invece c'è così nel vostro pensiero anche di farlo diventare un conto corrente con un'operatività più ampia o per adesso rimane solo conto di deposito? Noi riteniamo che qualche ampliamento lo faremo, non credo che diventerà un conto corrente tradizionale, stiamo cercando di tenerlo basico, semplice, lineare, in modo da tale da avere da minimizzarne anche il costo, perché solo minimizzandone il costo riusciamo a restituire ai clienti il massimo del rendimento. Ripeto, si parlava di promozioni prima, io vorrei segnalare lei promozioni. Non l'ho coinvolta su quel punto, sì. Come anche il collega, noi non facciamo promozioni, non le abbiamo mai fatte, siamo entrati sul mercato del 4,75, siamo rimasti... No, ma però non la vorrei neanche demonizzare del tutto, l'importante è che sia chiara, che si capisce... Non c'è nessun problema, infatti se vuole fa, non è nulla da dire, basta che vi sia assoluta trasparenza. Vorrei dire che le facciamo al contrario, nel senso che per assurdo ci troviamo in una situazione, l'abbiamo dichiarato, che avremo i clienti che restano, che sono clienti che continuano a godere di benefici superiori a quelli nuovi da quando nel corso del marzo ridurremo di un pelino il tasso attuale di interesse. Grazie dottor Bossi. Dottor Miccoli, 30 secondi anche a lei per parlare di possibili progetti di quest'anno, di che banca, del conto di deposito, ma anche per l'altra operatività che state ampliando. Sarà un anno sicuramente difficile, anche se voi avete la fila di clienti, lo ribadisco. Sì. Però a parte questo, adesso voglio dire, non è un anno facile, come andrà gestito secondo lei? Allora, la nostra missione è quella di dare prodotti bancari semplici e di essere una banca per tutti, che dia quindi prodotti economici, ma non solo i depositi, un po' tutto, quindi conti correnti, mutui e così via, no? Questa è la nostra vera ambizione, su questo stiamo lavorando, è sicuramente difficile, ma abbiamo delle novità in cantiere molto interessanti già per fine febbraio. Che noi monitoreremo allora attentamente, la reinvitiamo sicuramente qua nelle prossime settimane. Grazie molte ad entrambi, grazie anche a Francesca Tedeschi per essere stata con noi. C'era tra l'altro una domanda proprio sul rush finale di Vito da Parma che ci chiedeva il funzionamento base di un conto di deposito. Vito, questa era puntata all'inizio, doveva arrivare subito, si va a dare un'occhiata sul sito di Osservatorio Finanziario, così almeno ci facciamo questo scambio di favori con Francesca e sicuramente troverà molte informazioni, ma basta anche conoscere un po' l'offerta di tutte le banche e trova tutte le informazioni sui siti dei maggiori attori che stanno praticando una politica commerciale di questo tipo. A domani!